Nostra conversazione per un appuntamento di martedì 11 febbraio 2025 a Bologna, librerie Coop Ambasciatori, alle ore 18, presentazione di Poteri Occulti, Luigi De Magistris, che è autore ed è per anticipare e presentare l'evento qui con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Già il titolo Poteri Occulti, fra l'altro De Magistris, protagonista da magistrato di scottanti inchieste su corruzione e criminalità organizzata. E questi percorsi sembrano essere da sempre presenti, però vediamo di recente crescita e in costante appunto presenza. Perché c'è questa escalation di importanza negativa ovviamente di tutto ciò? Ma è una costante, però negli ultimi 15 anni si assiste sempre di più a quella che io chiamo la cosiddetta criminalità istituzionale, cioè la penetrazione del sistema criminale fino al cuore dello Stato, quindi della politica, delle istituzioni e dell'economia, con una mimetizzazione sempre più diffusa al punto tale poi da utilizzare nella loro azione gli strumenti della burocrazia, della legalità formale, della carta da bollo, e quando si trovano di fronte servitori onesti della Repubblica non agiscono più come nel passato con un attacco anche armato e militare, ma con i cosiddetti proiettili istituzionali, quindi poteri occulti perché diventa sempre più difficile individuarli, sono invisibili, sono seduti accanto nelle istituzioni. È un po' l'attuazione sempre più consolidata del piduismo come l'abbiamo conosciuto noi all'inizio degli anni Ottanta. Ora siamo in una fase più avanzata, si è passata dalla strategia anche militare che si è in qualche modo fermata nel 1994, e poi la mia esperienza soprattutto in Calabria mi ha consentito di individuare il laboratorio più avanzato di queste tecniche di commistione tra crimine organizzato, apparati dello Stato, politica, massonerie deviate. C'è una sorta di assuefazione a tutto ciò, bruttissima tra l'altro. Ma questo è uno proprio degli effetti collaterali della mimetizzazione, perché non vedendola non se ne parla, si abbassa l'attenzione, le persone siccome non vedono più attentati, omicidi, che chiaramente è un fatto positivo, ma c'è l'opinione, non dico diffusa, ma molto consolidata, che la questione morale, la corruzione, le mafie non siano una priorità, che anzi abbiano avuto dei contraccolpi molto rilevanti. Sicuramente ci sono stati importanti processi, importanti indagini, ma a mio avviso oggi il livello di inquinamento è molto più forte che rispetto che ne so, a 30 anni fa. Brutto questo vivere una normalizzazione di tutto ciò, De Magistris. È proprio quello, è l'obiettivo soprattutto dell''Ndrangheta, che se uno va ad analizzare dagli anni 80 ad oggi è l'organizzazione che meno ha utilizzato l'attacco militare, ma la conquista dello Stato, dell'economia, e quindi oggi certe volte non c'è nemmeno più il riciclaggio del denaro sporco, il denaro in qualche modo già pulito. Oggi non c'è più la necessità per certi aspetti di corrompere o colludere con un singolo perché si entra direttamente, quindi sono invertiti i rapporti di forza, è la criminalità istituzionale che è più forte e si serve alla bisogna dei livelli, diciamo, li chiamiamoli di strada, militari, e questo è soprattutto un lavoro che è stato fatto dall''Ndrangheta e poi da Cosa Nostra dopo la stagione delle stragi, quindi dopo il 94. Il disinteresse per quanto riguarda un'opinione pubblica sempre più sfiduciata è uno dei motivi, dà un po' mano libera a tutto ciò? Sì, quando il sistema sente la rassegnazione, l'indifferenza, gode quando sente dire vabbè, ma chi te lo fa fare, tanto non cambia mai niente, tanto sono tutti uguali, la rassegnazione alimenta la forza del sistema e di questo potere verticale, quindi anche una forma di assuefazione, ma anche per responsabilità di apparati dello Stato, non solo della politica che vive un periodo di diffusa mediocrità, ma c'è anche un abbassamento della tensione ideale e della tensione morale in diversi apparati dello Stato, magistratura compresa, che non ha